entusiasmo proprio ancora no, eh. C'è un po' di scetticismo da parte dei tifosi che giustamente aspettano i colpi che dovrebbero, insomma, riportare la Juve quantomeno al ridosso delle primissime della classe. Quei colpi ancora non sono arrivati, anche se la squadra la stanno costruendo in maniera molto intelligente. L'anno scorso mancavano gli esterni in difesa e sono arrivati due ottimi giocatori, uno in particolare Lick Steiner, oltre a Ziegler. Mancava una regia sapiente in mezzo al campo, mancava esperienza, carisma, ed è stato preso Pirlo, che secondo me è un grandissimo colpo, oltretutto a costo zero. Io ripeto, mi piace ripetere spesso che parliamo dell'unico giocatore al mondo, forse in questo momento, che potrebbe giocare titolare nel centrocampo del Barcellona. E ora manca però tanta qualità davanti, mancano almeno due grandi acquisti davanti, e penso che questo sta aspettando il popolo juventino. La questione legata a Giuseppe Rossi a che punto è? Perché in Spagna scrivono che ci sarebbe l'accordo fra la Juventus e il calciatore. Sì, è molto avanti. Il giocatore, con l'accordo col giocatore non sarà un problema, anche perché la trattativa la sta portando avanti, come facendo da tramite, proprio anche il procuratore del giocatore, che è Pastorello. Sì. Quindi è chiaro che l'accordo di massima c'è già col giocatore. Ora bisogna trovare i giusti accordi con il Villarreal, che valuta il giocatore 35 milioni, sa di non poterli prendere in contanti, e quindi si sta lavorando anche su una contropartita tecnica da inserire.